Arresto su rotaia, disagi e polemiche dopo la chiusura della ferrovia. Alla stazione di Rosarno, tra il malcontento dei pendolari e la parlamentare Angela Napoli. Dopo la chiusura della ferrovia nel tratto Lamezia Terme, Reggio, sono scattati i disagi, soprattutto per i pendolari. Il malcontento è generale e la stazione di Rosarno è diventata un luogo simbolo di difficoltà per chi viaggia. A condividerne le proteste la parlamentare Angela Napoli. Il servizio è del nostro inviato Franco Bruno. Sono le 10.30, alla stazione di Rosarno cominciano ad arrivare adesso da nuovo i treni a lunga percorrenza. Sono partiti ieri sera da Torino, Milano, Venezia, 12 ore di viaggio fin qui quando sono in orario, su vetture poco accoglienti, e c'è anche chi deve arrivare in Sicilia. Ora in ritardo. Come si viaggia? Era buono? Non pare mai. Pessimo. Io vengo da Vancouver, Canada.